punto di Stefano Folli. La forza di Matteo Renzi oggi è soprattutto la debolezza dei suoi oppositori, quelli interni al suo partito, si intende, irati, perplessi, ansiosi di vendetta, ma anche privi di una strategia. In fondo quella frase di Fassina, mi sono vergognato, a proposito dell'incontro col diavolo Berlusconi, è un po' la sintesi di tutto. Eppure il sussulto morale o moralistico non porta mai lontano in politica. D'altra parte la fragilità di Renzi consiste nell'eccesso di spavalderia che forse gli fa sottovalutare la capacità di freno di un sistema da tempo anchilosato. Le sabbie mobili in Italia hanno inghiottito parecchi innovatori e Renzi dovrà stare attento a non sfidare troppi nemici tutti insieme, quelli politici e quelli istituzionali, a cominciare dalla Corte Costituzionale, per esempio, che si è pronunciata di recente sui requisiti della legge elettorale e magari non ha voglia di ritrovarsi con un modello che assomiglia un po' troppo al vecchio Porcellum. Meglio per Renzi, insomma, non avere troppi fronti aperti, come dicevano i vecchi saggi.